Oggi è venerdì. E ieri era giovedì. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago e un saluto da Carmelo Lauricella. Bentornati a quest'oasi di pace in mezzo a tutto il trambusto del mondo al tempo della crisi, Kappa, la senti che pace che c'è? Vabbè, dai. Tito. È il tuo cane, non è il mio, quindi è lui che fa. Veramente è un tutor addestrato e pagato dalla rete, non è solo il mio cane, capito? È pagato pure. Vabbè, certo. Si fanno tante difficoltà per pagare gli esseri umani e poi si pagano cani e porci. Tito, vabbè, calmati. Voleva dire cani e basta, dai, senza porci. Drago, non offendere Tito. Ma allora, benvenuti in quest'oasi di pace e di oblio, mentre tutti intorno, ahimè, in furia senza tregua, la lotta tra i nuovi poveri, cioè tutti noi. Nuovi. Ma qui a Chiedo Asilo abbiamo il rimedio per una gran quantità di disagi più o meno manifesti. No. E uno di questi rimedi si chiama Il mondo di Pushigè. Guarda che ti fa male quella roba lì, Drago. Ti fa male. Si entra in punta di piedi. A proposito, i piedi. Cosa, Drago? Qui c'è qualcuno che tu, è entrato in punta di piedi, ma non se li è lavati. Vabbè. Vabbè, questa cosa del mondo in Pushigè, cioè in sostanza i manager che stanno ascoltando Chiedo Asilo in questo momento, cioè si isolano dai loro compiti, chiudere la porta dell'ufficio, il rating, lo spread, il default, via, e vanno nel mondo di Pushigè. Pushigè. E Pushigè. E Pushigè anche. E si spucchietti. Ma basta, Drago, ma insomma, cos'hai? Si entra in punta di piedi nel mondo più bello che c'è. Anche se vedi, non credi al mondo di Pushigè. Ma dai, non puoi ridurti così, c'hai 50 anni, il Pushigè. Cioè, tra l'altro che coi cani ho imparato, non bisogna adottare il pet language. Bisogna parlare come se fossero degli adulti. Capito? Ah, quindi e quindi tipo, basta se ne allora qui hai pagato la bolletta, hai messo a posto, hai messo a posto il piumone che è sei mesi che è lì sulla cassettiera. Questi sono i discorsi da adulti. Hai pagato la bolletta, hai messo a posto il piumone che è sei mesi che sulla cassettiera si riempie di polvere. Vabbè. Ma tu che vita hai, Drago? Fuoristrada nero e il mio ha un cammello d'argento. Tuo papà lavora al ministero e il mio fa le pizze di vento. Tuo papà ha un orologio firmato, il mio chiede l'ora agli gnomi. Tuo papà è un ingegnere avvocato e il mio è un domatore di fiumi. Tuo papà ha 1000 azioni di borsa e il mio ha una borsa da spesa. Tuo papà ha 2 auto da corsa e il mio corre a piedi in discesa. Insomma, ho capito, tuo padre è più ricco, più bello, vincente, più grande, potente, più forte, più duro, più fiero del mio. Forse è vero, però tu non conosci mio zio. Adesso basta, devo fare un annuncio. Sì. Un annuncio. Un annunzio. Voglio dimettermi da bambino. Come si fa? Io non lo so. Questo dovete dirmelo voi, però la mia intenzione forte e decisa è quella. Ma io ti dico che dimettersi da bambino è impossibile. Ah, questo perché in Italia la parola dimissione è un tabù. Ma guarda come parla questo tabù. Invece, la parola dimissione. Io invece, al contrario di altri, sono pronto a rinunciare alla mia posizione di bambino e a tutti i privilegi che comporta. Sono tanti. Perché non posso farlo? Non è il mio diritto. Ma tu sei un bambino, che non è che sei stato nominato bambino. Sei un bambino, cioè è una condizione senza soluzione. Poi cresci, diventi un ragazzo, poi via via un uomo e poi un vecchio, no? E poi in un tempo che ti sembrerà brevissimo, anche per te verrà il momento in cui gli altri si chiederanno: che fine ha fatto Alberto? Alberto? Ma non lo sai che... è morto. allegria, eh? Vabbè, però insomma, succede. Capita. Insomma, di mettersi da bambino vuol dire che diventi adulto, quindi tu te la senti di diventare adulto, è questo che vuoi dire. Beh, certo, tanto è uguale. Ha ragione. Ma ha ragione, certo. Se uno ragiona come te. E allora? Se ragiona come me, una certa differenza tra bambini e adulti la vedrei ancora, se mi è permesso. Ma la vedresti? Ma scusa, Drago. Io in TV vedo adulti, vecchi, vecchissimi, che corrono dietro le cameriere di un hotel. Beh, può succedere. E io ogni volta che ho provato a fare lo stesso nella pensioncina di Varigotti, dove andiamo... Io solo per giocare, no? Cioè, correvi dietro la cameriera dell'hotel, E facevo tipo, corri che io ti corro dietro, e quando ti prendo per la gonna dietro... Vabbè, dai, la gonna dietro. E mia madre, si è arrabbiata, mi ha tirato due ceffoni, così mi ha messo a posto. Però ha ragione, dai, scusa, perché il bambino Alberto non può dimettersi da bambino e diventare adulto? Tanto è uguale, è la stessa cosa. Alberto, allora stammi a sentire, essere un bambino è utile per diventare adulto. Non è che puoi saltare tutto quello che sta in mezzo. Se no fai come quelli dell'Africa profonda, no? Che sono passati dalla caccia nella savana a Facebook senza capirci niente. E anche se io faccio come quelli dell'Africa nera, profonda, che cosa succede? Che poi ti mancano le basi, ti mancano delle basi. Diciamo. Ma Drago, ma la vita moderna è questa, no? Saltare gli stadi intermedi. Ma cosa vuol dire? Ma in effetti lo vedi anche dalla gestione di certi appalti. Non si fanno più gare pubbliche, no? Si mandano direttamente 10 ragazze della Bari bene a chi deve decidere. Della Bari bene, però, Insomma, chissà anche della Bari male. Chissà come si... Tito, dai, la Bari bene, la Bari male, la Bergamo alta, la Bergamo bassa. Poi allora, cosa faccio? Mi dimetto. Ma non credo che ci sia qualcuno in grado di accogliere le tue dimissioni, che tu puoi dimetterti, ma a chi lo dici? Io posso provare con i miei genitori, tanto se ci stanno loro. Ma sì, ma infatti ma guarda che... Se per loro non c'è problema. Ma per loro non ci sarà problema, sono comunisti, figurati se non ti appoggiano. Vabbè, certo, i comunisti sono i paladini dell'autodeterminazione delle persone, dei popoli, no? Tu puoi chiedere ai lituani, ai moldavi, agli ucraini, e chiedi a loro. Vabbè, per chiederlo basta andare a Kashinagoba, Ma no, ma io intendevo dire... Ma come no, a Kashinagoba, perché lì partono tutti i minibus che vanno tutti in quel paese lì, Tito, vai! Dell'est! Vabbè. E c'è, tra l'altro lì, vai lì e ci sono anche tutti i pulmini e tutti i banchetti che vendono specialità di ogni paese, no? Così quando uno sta per prendere il pulmino e farsi 48 ore di pulmino senza fermarsi, allora prende qualcosa per rifocillarsi della sua, del suo paese, no? La salsiccia di caprone. Ma sì, ho capito. La ringhia sotto sale. Ma stavamo parlando di autodeterminazione dei popoli. 48 ore nel minibus con la ringhia sotto sale. Vabbè, questa è storia, Oggi è venerdì, ce ne andiamo via di qui. È finita la puntata con i Kajagugu. Cosa c'entrano i Kajagugu? È una cosa che ci siamo detti noi fuori onda. Kajagugu è il nome di un gruppo inglese degli anni 80. Solo dell'82. Che ha nel nome un chiaro riferimento all'infantilismo. Perché Kajagugu è, diciamo, la traslitterazione di quello che si può pensare essere il primo vocabolo di un bambino. Che dice Kajagugu, Kajagugu, Kajagugu. A tutti buon weekend, buon weekend a tutti. Buon weekend. Tu devi cantare, devi dare le informazioni di sempre questa roba. Allora, vabbè, innanzitutto ringraziamo tutti quelli che fanno Chiedo Asilo, e cioè Cap e Drago, che siamo noi, senza i quali non potremmo andare in onda. E poi non so chi c'è, Camero Lauricella, Laura Faggin, Daniel Plenz, Maso Arvelo, Guido Bertolotti, anche se non c'entra niente. Potete scriverci a chiedoasilo@radio24.it, potete telefonare allo 02 46 52 44 95 e visitare la pagina Chiedo Asilo Radio 24. Infantes, asilo, almeno in Argentina si dice Jardín de Infantes, in Perù sarà qualcosa di simile. Ciao, un saluto.